triste, un tentativo di evasione. La canzone è il grimaldello per la porta di questa prigione. Ritrovo libertà celata dietro all'oppressione. La mia felicità nascosta in cieli di parole. Se la passione brucia l'etere, avvio combustione. Violando regole, urlando con voce febbile. La mia ribellione, rivincita del più debole. Intanto la pioggia rende ogni convinzione cedevole. Che quando scrivo questo foglio divento lo specchio. Deformo ogni mio difetto a regola d'arte. Ma se il mondo impone maschere, messo alle strette accetto. Ed è solo quando sono solo che scopro le carte. L'unicamente mi identifichi meglio che chiare. Il mio pensiero lo riassumo in tre parole chiave: sincerità diverse, semplicità di base, la fantasia per raccontare le storie più strane. Il dolore è io scelgo il nulla, non è meglio, ma il dolore è compromesso. Ho tutto o niente. Questo è un tentativo di evasione. La mia canzone è il mezzo con cui volo oltre le porte della percezione. La mente lascia il corpo indietro, fatto va al contrario. Come acqua nell'altro emisfero per un braccio armato. La delusione la conosco bene, ho assaporato il sapore nascosto nel fondo di ogni bicchiere. Non sono interessato alla morale delle chiese. Ho preso senso della vita da mio padre, non da Monty Python. L'ossessione è stato di tensione, la missione affermazione di me stesso. Provo spesso compassione per chi ha convinzione nella religione, che è contemplazione o prigione un altro universo. Per te resto un interrogativo incattivito in una dedizione assoluta all'inganno vivo, distante almeno un anno luce dal traguardo. Mo determinazione sino all'ultimo respiro. Yeah. Qual è la più grande ambizione della sua vita? Divenire immortale e poi morire. Io l'ultimo esemplare di una stirpe in estinzione. Pecco nella distinzione del bene dal male. Cerco uno spazio che sia esterno ad ogni convenzione. Un'altra dimensione che consenta di sognare. Questa è la mia canzone, un soffio di speranza. Crea paesaggi indefiniti dentro al buio di una stanza. E come un grido a voce bassa mentre fuori il mondo strepita. Per chi non se lo merita sarà un rumore. Puoi osservare duello tra tessuto neurale, tessuto sociale. Cesure di spade ed accenti su atene piane. Vedi danzarsi denti consonanti vocale. Come cavaliere dame sul tappeto di pochi strumenti, frutto dell'alterazione di ogni percezione, scomposizione, ricreo nello spazio mentale. Se senti il passaggio di questi elementi, comprendi che sono conto corrente ma ho potenziale. E tu? Che cosa sceglieresti? Che cosa sceglieresti? I'm singing this message to you. Listen to my song. I'm singing this message to you. Listen to my song. I'm singing this message to you.